figlio, va la via! A qua sono stato in bocca al vento. Sì, infatti, cazzo, a molti se poi ci rispetto, va la via! Tu io rirrupendomi le balle, cazzo a lui lo conosco. E chi tu ce lo fai una posta, ma finita la prova. Ma la posta, allora. Ma ne voluto solo che hai tu. Ma poi conosci un assistente capo, cazzo, che sono andato per le denunce delle armi, no? E c'era lui in ufficio lì. Subito me l'ha fatta, ha posto un timbro via. E mi ha detto, ma cosa ti ne fai? Hai fatto a tirini la recce, mi ha detto. Aiuto, timbra zitto. E da poi siamo andati via allo spazio di la questura, che era ancora in via Michele Coppino. Figurati quanti anni ce l'ho io il portavoce. Cazzo, ma salve. Ce l'ho da quando avevo 18 anni, il portavoce da caccia ce l'avevo prima. Poi a caccia non ci sono andato più e mi ho preso il portavoce sportivo. E con quello non pago tasse, non pago un cacchio. Ma il fucile ancora ce l'hai, Natale, quello, non so se la carabina era un fucile. Due ne ho, c'ho uno di quelli, una carabina calibro 22 long range, quella imbatte 1,5 km col cannocchiale, e poi c'ho quello a pompa. L'altro, il beretta, quello da caccia me l'avevo venduto, mi sono convinto da lui. E allora il beretta ce l'avevi, quello da caccia. Non sa chi l'avevo dato, al fratello di Grazia, Giuseppe. Al fratello di Grazia, a Giuseppe, il fratello di Andrea. Sì, a Giuseppe di Naruso, lui. E la cazzo si invasia. Sempre per portolarmi, a caccia se ne andava. E poi lui l'ha venduto al marito di Grazia, della cugina, quello lì, quel fucile. Però quello non riusciva a tirare perché l'ha fatto su misura per me il calcio, capito? Se tu lo manometti, non tutti vanno bene, perché io ho la misura che c'ha mio cugino, per esempio. E per me, io, cazzo, come lo imbracciavo era già pronto. E loro non riuscivano a sparare, deve essere, avevano le braccia più lunghe. Cazzo, figurati. Cazzo, un arco non mi mancante, Giuseppe. Già se non hai, non sapevi dirlo. Un arco mancante. E il burro con l'ambeghi non lo vedo. Ma con Giuseppe andavo d'accordo, la verità si dica. Giuseppe abitava a Ripunti, non so se abita ancora lì. Abitava, mi sembra, a Ripunti. Sì, la casa lì gli avevano dato, in via Medaglie d'Oro, mi pare, una cosa del genere. Non hai idea, Francesca, dopo poco... Sì, lì abita, lì. ...vedere i genitori sorridere. Che faceva il salaiolo, poi è entrato con questa vita qua dove faceva il saldatore, non so se c'è ancora. Sì, se non sei andato in pensione, starà ancora lavorando lì. Aveva tutti i patentini lui per saldare. Ah, già era bravo, sì, già era bravo. Cazzo, sei in pensione, e altro arriva. Sì, sarà più manno di me. Io posso 67 anni, li posso agosto. E io penso sia già in pensione, se non è, sta lavorando così. Il più grande cosa, il più grande Tony, no Giuseppe. Giuseppe è il secondo, mi sembra. C'è anche l'altro, come cazzo si chiama, che è soldatore stesso, che è in piazza infissi in alluminio, quello, ha detto come si chiama, va in ora. Quello è Mario. È Mario. Tantissime c'è anche. Hanno bisogno. Giuseppe è più piccolo, mi sembra, di maschio. Allora, Giuseppe, Mario, Tore, poi le maschere non ce ne sono altre. Giuseppe, Mario, Tore e basta. Poi c'è Grazia, c'è Marianna, basta, delle donne. Sì, infatti. L'ho portata a Tokyo, a Giovanni. Marianna è tua cugnata. Marianna e Graziella, delle donne. Poi di maschi c'è Tore, Giuseppe, Andrea, che è il più piccolo, che c'ha l'età mia. E poi Mario, sono in 5. E allora Giuseppe dopo Mario, perché Andrea è il più piccolo, è giusto, giusto, Andrea è il più piccolo. Eh sì, Andrea vale da mia, del 72 Andrea. Cazzo, giocavamo in pala a Patamoa, ho detto Pizzo, mi ricordo quando veniva Giuseppe, veniva Angelo, che erano finanziati con Grazella, ben Sardù, veniva con Londra, cazzo, ma che era mancanti. Ha avuto Suzuki 750, Rokabasaki 900, ha avuto Londra 400, ha visto, ne ha avuto poco di nostro visto. Cazzo, un fatto furioso era morto. Cazzo, un'anno mi ha fatto un giro da dove c'è dalla fattoria per salire da Sassari. Cazzo, minimo era le nave del 200. Vai, vai, già mi sono più pusato volendo. E a chi mi aveva prestato una moto, uno scooterone va via, 6,50 di girindrada era, va via voluto rimarci chissù, va via il cambio sequenziale ci aveva, no? A Spalviero la giubba è da 200 ed era 180 io a 200. Mamma mia, altri tempi, cazzo, altri tempi. Tu, aiuti la doia. All'epoca veniva pure la mano, un casino, all'epoca veniva più da mano, niente che sappia trattare la moto, che a mezzo che abbia bildato. Adesso un po' mi sembra sempre un po' di meno. Ah, ti stavo dicendo, Antonio, ma un motorino non si può trovare, anche 125 miglia mi va bene a me, io lo voglio piccolo per potermi spostare, per non andare sempre al parcheggio a pigliarmi la macchina. Adesso mi avete la moto, ne stanno vendendo uno, 300 euro, Natali. E chi lo sta vendendo? Adesso te lo dico, sono andato a lavare la macchina lì in Viale San Francesco, non c'è quell'autolavaggio, sono andato lì a lavarmi la macchina e c'è la moto uguale alla mia. Il proprietario di quella moto le ha fatto fare la revisione, tutto quanto, tagliare tutto, poi dopo due giorni è morto, capito? È morto. Adesso questa moto è lì e la stanno vendendo 300 euro. E cos'è quella moto? Un 125? Come la mia, è un X9 200-250 cilindrato. Ma vanno benissimo come moto, Natali. E allora mi rabbiglio, subito. In Calabaggio è, Viale San Francesco hai detto, c'è un lavaggio. Visto lei dove c'è la scuola guida, ABC. Sì, dopo ho preso la patente io. Lì ho preso la patente anche io della moto però. Di fronte c'è un vialetto a senso, un vialetto chiuso, lì c'è un autolavaggio, Francesco si chiama. Sì, ok, adesso vado e controllo. Se 300 euro me la prendo subito. Guarda, se gli dai 200 euro subito te la dà anche per 200 euro. Ma bugattina. Una bocchia. Cos'è? Tu dici tu che mi serve una moto. Vai lì e prendi te la quella lì. Gli aveva fatto anche la sella nuova, Natali. Cazzo. È stato un prezzo, guardi. Buonasera. Buonasera a tutti. Stavo ascoltando, dai. Ma questo qui la può vedere la moto, mica la sua, la moto. Ci hanno dei pariti, no? Di chi su che muccio. Non è che può vedere la moto così, Natali. Stai attento prima che ti butti. No, la moto allora c'è i parenti, mica la vendi lui. La moto la sta tenendo lì nell'autolavaggio per non tenerla fuori. Ah, pensavo che se la stesse vendendo perché non sono andati a ritirarla. No, no, allora va bene, dai. No, la moto la vendono i parenti, mica la vendi dietro. Lui gliela sta tenendo la moto lì nell'autolavaggio, non lasciarla fuori. Devo fare un massaggio, chi si sono morto, e poi già devi fare un massaggio a chi si 50, figurati da una di chi si. Il passaggio è 80 euro, 80-100 euro. Sì, a me gli ha mandato, no problem. Tu la puoi guidare la moto grossa, sì. Io c'avevo la D io, c'ho da là e adesso c'ho la A e la B, quindi la posso guidare. E allora le puoi usare, io me l'ho fatta la patente per usare tutta la moto grossa. Io ce l'avevo già d'ufficio la A. Grazie a tutti, ce l'avevo. Grazie a te Dario, un bacio a te Dario. l'ho fatta togliere la D, mi manca la C e la D, le altre ce le ho, la A e la B ce le ho. Comunque tu vaci anche per 200 euro gliela porti via. Come Mariviru. No, va bene, perché gli ha fatto tagliare, gli hanno cambiato cinghia, a rulli, gli ha fatto tutto il tagliato da Bassanino, gliel'ha fatta, da Bassanino lì, quello che vende biciclette e moto. Io ho capito. Penso la via, la tagli. Cosa? Penso la via. E che moto è che vai tu? E di Emanuele. E sono quelle elettriche, sono Natali. No, no, non li voglio di chi elettriche. Ma vanno bene, guarda, in città vanno bene quella moto lì. Sì, va bene. Ma di quattro ruote, a quattro ruote. No, è a due ruote, siamo uno scooter sempre. Ho capito. Ma ci vuole anche il posto per caricarla. Mio Maria può farlo giù nel magazzino, ma non tutti possono farlo. A Natalina deve andare male, a Natalina deve andare una moto, uno scooterone, uno scooter 50, quello che è. Andiamo a male. Cos'è o Artù? Ma veramente Natalina? Ce l'hai il posto per metterla? Ah, ce l'ho il posto, perché non ce l'ho il posto per metterla. Ah, va bene, non te lo vedo. Quando io la mia metto in magazzino, la metto. Però adesso, se dovessi prendermi la macchina con quella, me la tengo sempre. Perché la moto a me mi piace molto la moto. Voi conosce, vai tu, io quando nel campo di balle io vado giù, io sono passato tutta la vita a Napoli. Magari a destra, no? No, a sinistra. Ehi, a chi faccio c'è vita tu, noi chi? Chi mi dà il sorpasso in destra, ma io mangio i denti da lì e devo andare lì, da un dentista era andenti. Cavolo, c'avevo questo mal di denti, non potevo stare. Ed ero disattento. E non piglia chi si è mai sorpassato da destra, cazzo, e tu quanti ci hai abitato da giù. Io già non lo faccio. Io sempre dentro la corsia, sempre, quando c'è che presa, sempre guardando, stando attento, e stando sempre dentro la corsia, quindi io sono passato a tutti. Sì, una moto già si può fare. Io l'avrei voluta a 50, vedi, o 125 al massimo, se è di più mi sembra che sia troppo grande, perché allora sai cos'è, a me mi serve solo per andare a pigliarmi la macchina oppure per farmi le commissioni, a non sta camminando a piedi. È comoda, comunque è comoda quella moto lì, Natali, è comoda. Natali, paghi di più col 50 che col 125. Sì, anche 125, basta che sia leggera. A me mi piace di dire la moto, non ne voglio di chi si fa ragione, bizanti, cazzo. Io, la mia, io pago 230 euro l'anno, pago, di assicurazione. Guarda, la mia è 200, cazzo, ne ho fatto, sono andato a Santa Teresa, sono andato a... Lui, ne ho fatto strada in due con quella, comodissima, bella, bella, bella. 230 euro l'anno non sono tante. Ah? 230 euro l'anno pago. Io pago 150 euro all'anno, è un 250 però. Vabbè, ma la mia, sicuramente ci siamo altri, in settima categoria. L'ho guardato l'altro giorno, se poi magari Guido, vabbè, ha avuto problemi con la macchina e cosa, ma magari anche lì conta, non lo so. Comunque 230 euro l'anno, magari l'anno prossimo farò ancora di meno, perché io già sto attento. Non ha più mai fasciato moto, cioè vabbè, quando sono caduto la colpa non era la mia, quindi non ha più combinato danni da parte di, grazie a Dio, sono sempre attento, non ci passo mai un rosso, sempre, cioè le cose sempre giuste. Ah tu, ma poi pagato te avevano in quell'incidente? Ma manco un barriere, ha fatto un dito la telefonata. Ma è avvocato. No, dovevo andare direttamente una di quelle agenzie che si formano di incidenti. Quello lì ti fa l'avere soldi subito. A me questo non mi voleva pagare e non la settimana mi sono caldato. Mi ha detto una buruetta. Secondo te da chi mi sono rivolto? Mica Matteotti mi sono rivolto, mica l'ho fatto io. Ah, e beh, e non è riuscito a fare nulla, allora mi sono morto. Ma non può nulla. Adesso non è di tornare a telefonare, dico, ma cosa siamo belli, no? Che allora dammi 14.000 euro che c'è prima da un mese, no? Che aiuto. A me me l'hanno fatto tenere subito e questo ha detto che non mi ha visto. Cosa c'entra? È uscito da un garage, mi ha abbigliato in pieno, cazzo, non mi ha visto, cosa c'entra? È uscito tutto un altro sicuramente, è uscito senza guardare, è uscito. No, è uscito sparato, che diverso, mi ha preso al centro della macchina, me l'ha alzata su due ruote e mi ha fatto smattere alle macchine che c'erano parcheggiate, figurati tu. Anche lo stavo guardando, uscendo con un ultimo rilamento. Io ci avevo a Liliana e a Marco che stava mandando all'aeroporto a imbarcarci. Maledetto. E infatti gli ho fatto la fotografia alle macchine sbattute, la targa, e poi ho detto ci vediamo, non ti preoccupare. Papa, non mi hanno ancora pagato, Michi. Una massa di farabutti, farabutti, guarda, farabutti proprio, cioè, gentaglia, gentaglia, va. Ma adesso speriamo che riusciamo a risolvere, stanno cercando di cose, ha quasi 4-5.000 euro, sono stato recuperato io, quel capo di scavi di merda che fanno, non stanno subito, e tu ci cadi a bocca a terra, capito? Ehi, tu, ma l'avvocato te l'hai messo? Non l'ho detto a loro, non io. Ma a me gli ha scritto subito la lettera all'avvocato, come la chiama di un avvocato va pagato. No, che mi paghi, ma non penso che ci siano problemi, cioè devo sentire ingegnere, cosa, ma lui mi dovrà telefonare, dico, ma Marcello, risolto il problema. Io lo dico, se che cosa vuoi andare male, non so che cosa, ma comunque. Anche se la revisione, acqua, la moto, se è tutto a posto, va benissimo, ti faccio una foto con te che vuoi, revisionata, c'è tutto, è tutto a posto la moto, come nuovo, è tutto. Io dico una cosa, se mi dite a parlare con noi, io non ti parlo perché io non ho neanche un soldo, non so da dove pagarti, quindi non mi dica più, non mi dica nulla. Quindi da voi sono un po' strano, io per portare male avanti, io soldi non ne ho, non sono lavorato, non sono andato per togliere, loro mi devono prendere, cioè tu che mi devi garantire una cosa, quindi a me non me la frega niente. Beh, se loro non riescono a farti pagare non pigliare di là ma quelli. Ma lui se non sta lavorando e non c'è il reddito c'ha il diritto al gratuito patrocinio. Questi mi hanno fatto uno scherzo che non mi dovevano fare, vabbè. Adesso vediamo lunedì, cerco di vedere un po' se è cosa, che cazzo, no? Veramente, è una via da Barunguru, Bari. Cioè, mi dovevano dare troppo e non mi hanno dato di meno. Adesso voglio vedere che questa cosa. Cioè, veramente, qua. Dice, stai calmo, che cosa? Ma sai se lui rimane un altro un po' di niente, qua, lascia perdere. E danno fastidio certe cose, perché è successo che da un mese dovrebbe si già pagato. A questo l'avevano già saldato. A me non avevo saldato nulla ancora, questa agenzia. Allora è pena di malucollarino. Ma poi dice che poi dice ti arrabbi. Ma tu non dico che ti arrabbi. Cioè, cosa devo fare? Quello calmo devo fare. Cioè, no, non è possibile. Cioè, è andato graffiato. Volevo portare una robotta a farmi a sistemare un po' perché mi dà già fastidio questa notte. Quando l'ho fallito, è graffiato. Altro non dice, ma ora voglio nulla però. Ma quando ti parla, non vuoi trasportare da me. Dovresti ammassare appena appena il microfono perché mi fai vibrare la cassa, invece gli altri non succede, mi vibra tutta la cassa e la voce non esce normale. La mia voce è perfetta, di cassa. accetto sporca, beh. Non accetto limpida come quella di Emanuele, di Natalino. Guarda padrone, adesso ha passato un po'. E adesso va meglio, vedi, era troppo forte. Non è possibile, e sono io che parlo in alto pure, non è assolutamente possibile, no, no. Cioè, cazzo, mi hanno ridotto qua tra me, ma di cosa ho usato due venti di male, spiegami, cosa sto facendo di male, boh. E poi dice la gente si comporta come si comporta, e ha certi comportamenti, ma che ben venga, e anche abbi pazienza, magari ti pagano subito. Oh, però a me la verità, una settimana e mezzo me li hanno dati, una settimana e mezzo ci hanno messo a pagare, mi ha chiamato e ha detto guardi che l'assegno è pronto, già fatto, sì, ha pagato tutto, adesso paga anche a lui. Ma no, che pagare al comune, non mi hai detto di pagare al comune. Ai, il comune è lungo a pagare. Quando vogliono i soldi loro già li vogliono subito, se no ti mettono la mora, questo, quell'altro, poi va a non pagare la sabondezza, roba del genere, io voglio pagare le ritta. Che gente brutta, guarda, che gente brutta, guarda, oh già, noi abbiamo tutto ciò, metto tutto là, adesso Antonio, chiude un attimo la trasmissione, andiamo a bruciare la tiota, le parte pronto. Già c'è il forno, ok? Ho già convocato per fare la sua. Dai, un saluto, ci sentiamo dopo, magari. Ciao, ci sentiamo. Avanti, Emanuele. Emanuele non riprende. Stavo dicendo, e allora paghiso a chi deve pagare un comune, chi sono longhi. Già ti pagano i domani, già. Se no cammina a punizione un altro abboccato subito a scendere le grabbi. Tanto va a rugare tutto a patrocinio, perché non ha reddito lui. E non lo fanno pagare gli avvocati. Già li paga la regione. Sì, no, ma questo qui è quello che ha messo l'agenzia, recuperi crediti, capito? Non è dalla regione. È proprio l'agenzia che mette l'avvocato, non l'avvocato loro. Io me ne avevo messo un altro, me ne avessi dato i grabbi. Se non agisce questo avvocato qui, o se venduto, come ti hanno fatto come zio, se venduto l'avvocato, cazzo, e ci duro bruttesso e tu non esabbia nulla. Cazzo. E non l'hanno pagato, hai capito? Devi stare attento con l'avvocato. A me va più gratuito patrocinio e sta attento 750 euro da chi sui miei due anni là. Se avevi saputo, cazzo, non avevi accettato. Bobo, stavo io. No, vabbè. E che su che ho giù io, non mi attessi. Non ha fatto bruciolutta, se ne ha fatti. E che ci sono travaglio. E quelli che se l'hanno messo, ma non ha combinato nulla, lo devono anche pagare, capito? Hanno fatto meglio che non me l'hanno giunto, tanto lo sapevo che finiva così. Sì, infatti. Risolto il sabucato, cazzo, che si vende, nei bastardi. Ne ancora, ne vuoi? No. Chi la bucca di giù, a chi... A chi si dà carissi, no. Noi ne avevamo uno, ci guardavamo tutti male perché il principale sapeva tutto quello che si diceva alle riunioni. Ci guardavamo male uno con l'altro pensando che uno l'altro parlasse. E invece era proprio chi faceva la riunione che andava a spifferare tutto ai principali, capito? E a chi c'è venduto lo sindacalista? Tra sindacalisti e avvocati non ci sono peggior ladri. Via. Non ti puoi fidare, non ti puoi fidare ma con la polizia dei carabinieri perché ci sono anche gli infiltrati. Avvocato sì. Oh iaia. Va bene. Cosa vuoi fare? Siamo in Italia. Eva, per carità. Ma cosa vuoi fare? Oh ya. Ma stasera hai girato della brotta, Natali. Ti ho avanzato da pranzo. Ho fatto calamari, pasta alla carbonara, insomma, c'è tutto fatto, perché c'era solo Marco, non è venuto Maurizio, quindi è avanzata la roba. Ah, già è vero che è domenica oggi. Io pure ho la roba a pranzo, adesso la scalda mia moglie e mangio. E cosa bello, si la roba. Non so più tempi, no. Prima si buttava la roba, ma adesso non fa più. Come fa a buttarla? Ognuno la chiamata di me. E infatti. Andava che ci vuoi, a me mi sa che una biglia da Baruguru, con tutti i passaggi che bisogna fare, a me non ne ha di nessuno. Cosa era tra... stati al posto del reddito di cittadinanza, non ne daranno a nessuno, perché mi sembra che è una presa per il culo. Un casino, Questo qui a chi lo dovrebbero dare? Che reddito devi avere? Quello che devo sapere. Cosa non devi superare di reddito? 6.000 euro. No, non ho capito. Quanto? 6.000. E allora mi supero di brutto. Infatti. Quello che hanno al reddito lo devi ne dare. È gente che ha superato i 60 anni, in modo che... se no a quelli che possono andare a lavorare gli danno 350 euro se fanno il corso, se no non gliele danno, se non fanno il corso d'aggiornamento non gli danno, perché così hanno la possibilità di trovare lavoro. Ti devi presentare agli assistenti sociali, non è così, no, non è come ti urli di tua cittadinanza, no, Gesù è un bel difficile che ti lo dogliano. Perché molta gente ci ha giostrato con il reddito di cittadinanza, capito? C'era gente che lavorava e prendeva anche il reddito, e così non va bene, dai. E poi per la gente che gana di travagliare una via, la gente si chiede il personale non acciappava, chi deve avere né un reddito non andava a travagliare. E poi che hanno fatto una bella stretta. Però anche chi assume non è che deve prendere per il culo la gente, perché se gli danno il tanto del reddito vuol dire che gli danno poco sempre. E quello è il problema. Il problema è che anche gli albergatori vogliono pagare poco e vogliono personale che travagli come ti dici, specialmente nelle stagioni, ma sai come lavorano. C'era Marco quest'anno che stava facendo la stagione, l'anno scorso, non quest'anno, e in estate, là, e praticamente correvano da una parte all'altra, sempre correvano, diciamo. Però il principale ci ha invitato, ci ha fatto una cena gratis, ci ha invitato lì a mangiare. Ho capito. Però la gente può assicurare e pagare da me, no come ti sto pagando, che a te tu ci vai a lavorare per 4 euro all'ora, cazzo non lo so io, vedo me di niente di travagliare, chi li paziene di travagliare, e 2 euro paziene 4 euro all'ora, ma forse la gente non andava. Infatti, ne conveniva più prendere il reddito di cittadinanza, anche se non penso che nessuno si senta pagato con il reddito di cittadinanza, le piacerebbe più trovare un lavoro fisso e non prendere il reddito di cittadinanza, perlomeno io la penserei così per me. Chiunque la pensa così, cazzo, a chi quando ti dà 5-100 euro, a campi con 5-100 euro. Infatti, perché c'era gente che lavorava, faceva l'una e l'altro, prendeva, lavorava in nero e si prendeva anche il reddito, capito? Non si faceva assicurare, se no perdo il reddito di cittadinanza se mi assicura, capito? Infatti, perché con 500 euro cosa vuoi sia? È una cazzata 500 euro, non si campano, è logico che lavoravano in nero quelli furbi, i furbetti, no? E questi si umiliavano l'uno e l'altro. E l'altro io non si campa né con 500 né con 1000 euro. Ma io già lo so io, non è che non lo sappia. Ed è per quello che ti sto dicendo tutte queste cose, perché le abbiamo viste. Non si può entrare ma con le negozi, ma in farmacia va. Poi non si può comprare nulla. Cazzo. ci hanno aumentato tutti i ricorsi, ci hanno aumentato. Oh, yeah. Speriamo che buttino fuori quella sonzetta. E quale? La Meloni? E la Luce. Quella ha fatto un casino lì, fa calendare. La Cavadurriti ci ha fatto un bel macchino. Noi per ritrovare il Movimento 5 Stelle al potere, boh, basta. E quello facciamo le cose fatte bene come si deve. Oh, quelli hanno finito di fare politica. E non l'ha detto. Ti può catapultare in tutto. Non hai visto a Solinas come l'hanno messo sull'asino? Su internet c'è. Ha cavato online. E vabbè, io so del parere che chiunque salga al potere rimanga di Binava, è poco di fa. Dovremmo governarci da soli, come dice un amico mio che è della Lega, che è milanese. Quando viene qua mi dice sempre: Gianni, voi siete sardi, siete un'isola, dovete governarvi da soli, dovete staccarvi dall'Italia, perché governandovi da soli otterrete quello che dovete ottenere. Ma noi ci dovremmo già governare da soli, perché siamo a statuto speciale, abbiamo un nostro Parlamento. Solo io sono tutti fatti a Roma, puzzinosi. Lo più pulito va a Rogna, dei politici. Troppo sì. Però guarda, ma io penso una cosa, noi abbiamo così come ti permanasura che siamo tutti disoccupati, siamo qua in Sardegna, c'è un po' di disoccupazione, l'unica cosa che bisognerebbe riprendere, una delle poche cose, ma le più importanti, è quella dell'occupazione. Ma si travaglia uno per ne. Qua non ce n'è lavoro, non per uno in capo. Infatti molta gente che fa i corsi di aggiornamento, dove lo trova il lavoro? Fino che non ce n'è. Bisogna crearlo, se si crea, guarda, in continente fanno tante cose, una delle cazzate che fanno è fare quella vita artificiale dove praticamente si va a pescare, poi quando si pesano il pesce te lo fanno pagare. Lì all'interno di questi laghetti fanno, mettono dei bar, dei posti di ristoro, eccetera. E mi stava dicendo un amico che sta, che c'ha un amico che si è fatto un po' di soldi così fuori, capito? E i noghi non ti rubai, i noghi mancano nell'albergo, i burubari turisti mancano, non è un cazzo i noghi, non ci siamo buoni, non abbiamo spirito imprenditoriale come in continente. Noi sardi siamo, boh, non lo so neanche come definirci. Capre, capre, capre. Ha ragione Sgarbi. No, ma già ci sono le persone che si buttano, vai, non bisogna dire questo, non sono tutti così. C'è chi rischia e chi va avanti anche. Bisogna solo buttarsi. Se c'è la paura di cominciare non si farà mai niente. Ci sono dei piccoli imprenditori che guadagnano benissimo lì, nella zona di Brescia, quella zona lì. Si fanno questi laghetti artificiali, all'interno mettono un bar, un ristorante, la gente va, mangia, sta tutto il giorno lì, pesca, poi quando se ne va si fanno i soldi da quello che ha mangiato e dal pesce che pescano. Ma qua hanno paura di investire, se ne vengono le ditte di fuori a lavorare qua, e sardi guardando, cazzo, aiuto. Ma se vengono ditte di fuori e prendono a lavorare gente sarda, vengano, è interessante che creino lavori per chi c'è. Ma lo vedo che ci arrecano pure un personale di continentale e non assumono nessuno di qua, è quello il discorso. Se abbiamo assunto la gente di Noghi, non si era mai potuto lamentare. E invece gatta, venene, si fa in un travaglio e si torna e andà. E non assumono nessuno di Noghi, chi sono il problema? Non abbiamo sindacati efficienti, non abbiamo un cacchio qua, cosa vuoi? Fatene un cavolo che vuoi, c'è niente. E noi qua siamo nati, purtroppo siamo nati qua. punto, oddio, 850. Dice, i continentali dice che siamo in un paradiso. E hanno ragione, siamo proprio in un paradiso. Solo Rugatta che non rischiamo, non hanno paura di investire, di rischiare. Il sardo non c'è buono a fare l'imprenditore a livello come tipo assì, un continentale, che quelli sono spregiudicati, non sono a livello nostro. Stanno venduti tutta la salgigna alla gente di Vula. Chi si chiama Nero d'Arreno alla Golda. Figurati. Perché loro gli danno molti soldi e quando i soldi vedono i soldi ci vedono ci appalla. È quello. E non guardano niente. Lo so. Purtroppo lo spirito imprenditoriale c'è minimo a parte qua. Non sono tutti i grandi imprenditori, però dico appunto, se venissero da fuori per poi prendere gente di qua sarebbe ideale, perché non rischi e lavori che nello stesso tempo. E non sai cos'è, sono i giovani, dice mio figlio, cazzo, senza lavoro, sto cercando qualche cosa, ma è difficile, è difficile. Ma lui è anche diplomato, cioè, stava quasi per laurearsi, mancavano i due esami, era tesi, si laureava, nulla di tutto. Marco ancora senza lavoro, eh? E allora, ha fatto la stagione, dopo la stagione non ne ha trovato altro. E con tutto che c'ha un curriculum, perché ha lavorato in un albergo 5 stelle. Figurati. E ha fatto un curriculum non differente, però avevano praticamente, loro lavoravano molto, sì, però non è come diciamo un ristorante normale, loro avevano il self-service, c'era tutta la roba al centro, come vedevano che finiva la roba, ritiravano il piatto vuoto, mettevano quello pieno, poi ritiravano i piatti diciamo dalla tavola, eccetera, eccetera. Non è come un ristorante normale che devi stare a servire, a fare, fanno tutto loro, c'è il self-service. Io ho capito. Ed è un albergo all'interno di un residence, capito? C'è il residence, c'è l'albergo, c'ha tutte le case tipo villette, così sono fatte in pietra, eccetera. E sono tutte dell'albergo, capito? Queste case le affitta. Io ho capito. Ma con Sardegna? Sì, in Sardegna. In Sardegna. È vicino a Umbria, dai. Dopo Umbria rimane. Non ho capito. Quasi subito dopo l'ospedale, come cazzo si chiama? Materurbia, cioè Materurbia, poi passi in Materurbia e giunti sulla sinistra e c'è questo villaggio. E ho capito. E chi mi la giudice a me che c'è state? Il giorno che stavamo andando che eravamo invitati, no? Stavo camminando tranquillo, esce questo dal rifornitore senza guardare, sparattolo, sai, se non do la sterzata di colpo, ma quale non verrà di macchina da fermarsi, mi mide in pieno, mi ha sfiorato dando la sterzata io, l'ho suonato, mica, dopo non si cu***o, perché lì ci sono fili astronomi che escono di colpo, capito, per bruciare la fila. Io ho capito. Comunque sono bei fusti, c'è la piscina, un bel grande, sono dei bei fusti, dai, tutto quanto il verde attorno, alberi, eccetera, tutti i viali lunghi, ogni viale c'ha le villette, capito? E già si va nelle diretti. Pare turisti è fatto. Turisti no, magari se trovano a affittare anche d'inverno, la affittano, non lo so, penso di sì. Sono case fatte in pietra tipo quelle di Stintino. Io ho capito, dei residence. È un residence, all'interno c'è l'albergo, capito? È un albergo rinvellino, no, gente che non va di là, Infatti è tra ienti da una rosa. Vabbè. Comunque abbiamo mangiato bene, tutto quanto ci hanno trattato bene, veramente. C'era di tutto da mangiare. Vito! Ma ti immagini il gigante prepotente strano? Gli ultimi giorni per salutarci ci hanno voluto invitare i principali, ci hanno fatto l'invito. ho capito, lì a Udiet abita il figlio di Concetta, abita lì perché lavora lì. Anche a Massimo, il mio cognato lavorava all'ospedale di Udia, poi l'hanno trasferito a Sassari, c'è anche questo trasferimento a Udia. Eccoli qua, va bene, gli hanno fatto? Ma cosa si vede, fai? Ehi, ma tu non ti ripari mai, sei sempre a trutti da buttare. No, la faccio solo la domenica. Ah, vabbè, allora scorreggi solo la domenica. Ah, ma ti rimani un pezzo, bia. Oh, no, che devo scendere ancora il canale, devo fare un po' di roba, c'è troppo che porto giù a tali, so che ore sono. Volevo dire, però ho proprio fumato una berretta, e via. 19-18. E proprio che vado a portare il cane. E poi c'ho tutta la roba di pranzo da mangiare, c'è la tirarapuda pure. E ho fatto la pasta carbonara, ho fatto calamari, ho fatto patatine fritte, c'ho tutto qua. Perché doveva venire mio nipote e poi è andato dall'altra parte, quindi non c'è venuto. Mi aveva avvisato comunque, io l'ho fatta lo stesso, la roba l'ho fatta per la mollante, poi è stato se mi male me la mangio così. No, è fatto quello che hai fatto. Io mi avevo dal porco, cubrienza, ma da croccante, buona burca che calda. Ma le dosi chi ce le ha date? Fammi avere le dosi a tu. Mattarino mi sembra. E ho uno lato, fatemi avere le dosi, via WhatsApp. Che così almeno ci provo anch'io a farla, dai. Così vediamo un po' se è pasticcio o se mi riesce bene. Quant'è la gradazione del forno che la devi mettere? Allora, 200. 200 gradi, è pure di più del Bonella. 200 è grave. Ma io lo faccio col forno a gas, lo faccio. Però no, per cucinare bene avevo la bretta. La bretta? Sì, la pietra là, la pietra con defrattaria ci vorrebbe nel forno per cucinarla perfetta. E dove la metti la pietra? Sopra la griglia? Sì, sopra la griglia. Ah, ho capito. E dove la prendi questa pietra? Beh, c'è il droccata, si trova pure. Acciugavito. Beh, vabbè. Ehi, vabbè, ma già c'era quella di fronte a me, la faceva, ogni giorno l'ha detto, già di me che ho fatto la ferita, detto, ma chi ce l'aveva facendo, chi ce l'aveva comprata. Ma l'ho comprata, ma buona, buona, veramente buona. Pure, e così esce la mia, esce buonissima, esce. Meglio di chi sai di tu, comparete, perché tratti lo zoccolo, amore. Poi in pace è fresco, e non fa zimari come te la fai nei compareggi. Basta che la riposa fa 4 ore e da poi tira in forri. Sono andato a scoprire anche un'altra cosa, che molti non la fanno riposare la parte dei burro, come il Diana Anda, ma io ti guardi male. No, no, vuole lasciata riposare per 4 ore e tolta la schiuma dopo le 4 ore. La schiuma che fanno? Ne la togli dall'impasto, la schiumi e dopo allora la puoi fare. Ed esci bene. Tu la togli la tua schiuma. Sì, già la tocco, ma la schiuma non è, quando la fai riposare non ne fate tanta. E quella che fa me la togli, capito? Ed esce una bomba. Con zuono d'arriva, devi muni, e lo vedi a vedere, e il sale devi mettere. Ed esce buonissima. E di farina qualche ne devi mettere? Un litro e mezzo, un litro mezzo di acqua, metti un mezzo cucchiaio di sale, ma non tanto, se no ci troppo salita, e il sale lo devi girare, lo sale con la cosa, lo faccio gli nell'acqua, poi metti 4% di farina, di gelato e impasti, la banana, la mano, io, siccome ho scoperto che esce più croccante, gli metto un goccettino di olio nell'impasto, la faccio mangiare con la banana e poi lascio riposare, e poi la fai. Vabbè, ci dovrò tentare, ma mi devo comprare anche la sedia perché ho sedie quadrate, rotonde non ne ho. La sedia a quella della vita, da uno spino ho comprato io, piccola. E poi se riesci a metterci pone di la bredda perché cucina meglio, so, ma prende tutto quel calore allucinante dal forno. Poi, metti 7 cucchiai di olio dentro la teglia perché lo devi spargere bene anche nei bordi perché se no ti si attacca la farina, olio da lì va sempre, poi prendi, tagli la torta, quello che è la salsiccia, che su che ti serve, metti, io metto 6 drudi nel bocco da 20 kg. Se tu la devi girare con cucchiaio e mescolare con l'olio e poi le metti quello che deve la viola e la salsiccia per cucinare un po' e dopo si mangia. Ma pronta rimagna sulla taglia la fai e devo prendermi la pietra io per il forno mio che è grande, quello della cucina mia è un bel mano, lo vorrei, mi devo pigliare la bredda a chi non cucina avessi, no, mi la brucia sotto e sopra non me la cucina già bene, quindi ci vuole quella pietra lì per cucinare, la pietra refrattaria ci vuole. E i cammini ce l'hanno già la pietra refrattaria, non ho bisogno, nel cammino ti dovrò uscire bene. Nei forni c'è bene, io l'ho fatto col forno elettrico in pasticceria una volta, cazzo, ma a me ci da così bene di lusso, e me lì puoi darle la gradazione che vuoi, sono forni professionali qui dentro e puoi aumentare le gradazioni. Lumiro va via due camari o tu degli baccame la vista zia una baita c'era minorito lo vorrei va più via. Ha voglia di fare farina, Tari, potevi fare anche la farina oltre che i dolci. E poi mi è uscita veramente bene la volta, bella croccante, ma tu la dovevi assaggiare, mi è uscita così bene. Quella pizzeria sotto casa la stavo facendo, li stavo uscendo bene, poi ha mollato per fare panini e roba fritta, deve essere mi conviene di più. E ha mollato la fede e sta facendo panini e roba fritta, tipo patatine fritte, cioè questa roba qua. Polpette di pollo, tutte queste cose fa, capito? Sì, evidentemente ne prendevano di meno di farino e a tutti chi piazzino, per esempio mia moglie non ribiazzi, preferisce la pizza alla farina. Ma che vuol dire questo? Anche io preferisco la pizza, però ogni tanto bisogna anche cambiare, poi mangiare sempre la parte si rubano. Sì, infatti, la buona soddisfazione che ce l'hai fatta tu, cazzo, io ho 3 teglie, ne ho tonde, belle, cazzo, quello lì ci metti l'olio, cazzo, è una bomba esce con quelle teglie, le ho comprate apposta, ma solo che era un borro che non andava, allora, li buonimo la bredda, come ti dice Antonio, e vediamo come cucina. Se tu vai a stare 200 e lo hai cagli bene, quando è tu casa allora si impone la fania che vivo un colpo di rugorro che vuoi. Ma la preda è un risotto, non sopra la graticola, no? È pisante la dita, la preda. Attaccata la bongo, risotto la bongo, la preda. La metti 10 minuti nella, sopra la pietra, la teglia, e poi ce la metti più in su dopo 10 minuti e vedrai se conti. Vai, può comare. Vai, troioso. Dove sei? E allora? Alto. Leggiamo un sacco. Sto andando un attimino a vedere cosa, come andrà a vedere. Che cos'è? Luca! Pomoletta! Tanto non lo sento male, ho troppo occupo la radio. Raga! Lo sento male, Antonio. Tu mi senti male? Non è chiaro, è troppo alta, non dovresti avere riguardo ai toni. Questa è la mia P4. Ma cosa sono le regole? Cosa si sente? Aspetta, ma meglio così. Già, non lo so, sono io. No, l'ho detto anche io poco fa la stessa cosa. Vabbè, dai, io vi saluto e vado a portare giù il cane, dai. Ci sentiamo, sei entrato troppo tardi, entra prima. Vabbè, dai, ciao già, ci sentiamo, grazie per le quattro chiacchiere, dai. Ciao a tutti, dai, di nuovo. Ma tu, quando è pronto a fare un colpo di telefono, ci occupare di mania. Ma non c'è problema, ma perché ti chiamo a vero? Ah, che sto scherzando, c'è tutta la roba da pranzo, se no ce la butto via pure a tu. Come ricevuto. Ci sentiamo, dai, buona serata a tutti. Ciao. Avanti, Luca. Luca, mi senti? Natali. Ora, andate. Già stai uscendo, tu, sono loro che non stanno rispondendo.